2 agosto 44, cattura di Libero Mannelli a Fontebuona. Libero Mannelli, fiorentino di Rifredi, aveva raggiunto i partigiani della brigata Fanciullacci all'inizio del 44 per sfuggire alla leva repubblichina. Negli ultimi giorni di luglio era stato inviato a Firenze per verificare la situazione del fronte e per recapitare alcuni messaggi. Durante la marcia di rientro venne intercettato a Cercina, mentre risaliva verso il campo partigiano su Monte Morello. I tedeschi lo portarono al comando, che stazionava in una villa di Bivigliano, per sottoporlo a interrogatorio. Dopo giorni di tortura venne fucilato a Fontebuona, nei pressi della chiesa di San Michele a Macchie. Nel dopoguerra fu decorato con la medaglia d'argento per il valore che aveva dimostrato in combattimento e per aver sopportato le violenze dei nazisti senza tradire i compagni.